Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 19 aprile della prima edizione di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchessi. Oggi vi raccontiamo la storia di Carlo Saturno, un giovane entrato in carcere e mai uscito vivo. Cristina Carpinelli. Secondo me Carlo non si è impiccato da solo, non so chi è. Vogliamo veramente giustizia. La sorella di Carlo Saturno vuole giustizia per suo fratello, morto in cella nel carcere di Bari a 22 anni. L'hanno trovato impiccato, ma tutto fa pensare ad altro. Per ora la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ma dentro quella cartella c'è la storia di un sistema che non funziona, che è talmente penoso anche solo da raccontare. Il sistema penitenziario italiano, che eccetto qualche fiorellino all'occhiello, per il resto è fatto di sovraffollamento, violenze tra detenuti e tra detenuti e agenti penitenziari. La storia che vi raccontiamo parte da Manduria. Una famiglia numerosa, 6 fratelli, un padre e una madre. Il padre si ammala e muore. I servizi sociali separano i figli dalla madre, affidati a famiglie o a centri. I ragazzi si smarriscono. 2 in particolare, Carlo e un altro fratello, cominciano ad entrare e ad uscire per reati piccoli dal carcere. Furti, l'ultima volta Carlo ha 16 anni e finisce a Lecce, nel carcere minorile. Lì subisce violenza fisica e psicologica da parte di 9 agenti di polizia penitenziaria. Si muovono come uno squadrone, fanno cose impensabili, tanto che altri secondini confermeranno quanto detto da Carlo Saturno ai magistrati. Carlo ha soli 16 anni ed è l'unico a testimoniare tra tutti coloro che hanno subito violenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che credeva nelle istituzioni, dice Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone. Oggi è, diciamo, una vittima della giustizia, un tempo è stata anche una vittima dei servizi sociali, nel senso che non sono mai riusciti ad intercettare questo disagio personale e familiare. La vicenda di Carlo Saturno è una vicenda complicata perché si legano due processi. C'è un processo a Lecce quando lui era minorenne, tra l'altro è delicatissima la detenzione dei minorenni, perché in una fase in cui è la fase della crescita del ragazzo, è la fase in cui tu gli devi dare un profondo messaggio di legalità, mentre lì, pare che ci fosse una squadraccia di persone, di poliziotti che usare sevizie nei confronti dei ragazzini. Tutto è certificato dentro la richiesta di rinvio a giudizio del PM e dall'accettazione del GIP del rinvio a giudizio, e quindi stiamo parlando di fatti che hanno già una loro documentazione. Tra l'altro c'erano anche le testimonianze di altri operatori penitenziari che erano indignati di quello che stava lì accadendo. E lui andava protetto, tutelato, perché Carlo Saturno era una delle persone che era stata maltrattata lì e che ha avuto il coraggio di costituirsi parte civile. Primo punto, un ragazzo che viene da una famiglia con molti problemi di carattere sociale, che si costituisce parte civile, vuol dire che crede nello Stato, cioè, quindi va protetto, va tutelato, va quasi premiato, perché tu decidi di non farti giustizia da sé, ma soprattutto al meridione. Io vengo dal meridione, è molto più facile che tu ti prendi il poliziotto che ti ha menato, che ti ha picchiato e gli dici ci vedremo un giorno fuori. Invece no, questo non è accaduto, lui ha usato gli strumenti della legalità processuale. Questo processo è andato avanti, purtroppo, come sempre in Italia, tutti i processi molto lentamente. Nel frattempo lui è finito in un carcere per adulti e poi abbiamo visto dalle cronache che è morto, non si sa bene quali siano le circostanze, ci sarà un secondo processo a dover spiegare se c'è stata o meno un'istigazione al suicidio, se è suicida o no. Detto questo, quello che noi vogliamo che si sappia e si verifichi e si indaghi se c'è un legame tra la sua determinazione a essere parte civile nel processo per le sevizie di Lecce e la sua morte di Bari. Ora però Carlo Saturno è morto. Alla sorella chiedeva di andarlo a trovare ogni giorno, ma gli agenti lo hanno messo in isolamento. Lo hanno trovato impiccato a un lenzuolo il 30 marzo scorso in una cella di isolamento del carcere di Bari. Per una settimana ha combattuto tra la vita e la morte in ospedale. Carlo, nei giorni scorsi, avrebbe dovuto testimoniare al processo in corso a Lecce a carico dei 9 agenti di polizia penitenziaria dell'istituto minorile accusati di violenze avvenute nel 2006. In procura è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti e senza alcuna ipotesi di reato. È stato affidato ai sostituti procuratori Pasquale Drago e Isabella Ginefra. Durante le indagini era emerso un pestaggio che Carlo avrebbe subito il giorno prima di impiccarsi da parte delle guardie carcerarie. E intanto un'altra inchiesta è stata avviata dal capo del Dipartimento della Polizia Penitenziaria Franco Ionta, che, dice, intende fare massima chiarezza. Quella di Carlo è una delle tante storie che costellano il panorama delle carceri italiane. Samantha Di Persio ha scritto un libro, si chiama La pena di morte italiana, sottotitolo Violenze e crimini senza colpevoli nel buio delle carceri. Ciò che ci deve far indignare, che non è tanto la non punibilità di alcune persone, ma la condizione, cioè diventa proprio una condizione di non punibilità. Cioè, facciamo l'abitudine alle cose, ecco, non ci indigniamo più. Quindi soprattutto questa ricerca, andare oltre quello che viene dai media, anche Stefano Cucchi, cioè la cosa che a me ha colpito quando ho parlato con la madre, che lui dopo 6 giorni indossava ancora gli stessi abiti di quando è stato arrestato, quando poi c'è una circolare Nuovi Giunti che dedica tutta una serie di attenzioni perché soprattutto ai Nuovi Giunti, quindi a coloro che fanno l'ingresso in carcere per la prima volta, ad esempio proprio quello di poter avere un cambio, perché è difficile, insomma, è traumatico il passaggio dalla vita libera alla vita ristretta, certo. Quindi essenzialmente ci sarebbero anche le leggi, però poi la pratica manca. Partirei dalla nostra Costituzione che fa i diritti inviolabili, cioè la vita. E oltre a questo abbiamo tutta una serie di norme costituzionali che parlano di riabilitazione, che la pena deve servire appunto alla rieducazione. Se succede questo, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Fra l'altro non succede al potente, no? Non abbiamo mai sentito parlare di un politico o di un boss che si ritrova in una situazione di questo genere, quindi può succedere a chiunque, soprattutto se fa parte di alcuni ceti sociali. La prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi 13:30 su Radio 24.